Sezione ventesimo di Nuove Odi Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Algy Pug. Tombre precoci, dalle odi di Friedrich G. Klopstock. Ben vieni, o bel astro d'argento, compagno tacente alla notte. Tu fuggi? O rimati splendore pensoso? Vedete? E rimane, la nuvola va. Più bel d'una notte d'estate è solo il mattino di maggio. A lui la rugiada gocciando da i ricci riluce e vermiglio pel colle va su. Oh cari, già il musco severo a voi sopra i tumuli crebbe, de come felice vedeva io con voi le notti d'argento, vermigli i bei dì. Fine della sezione ventesimo.